Dai, siamo tutti contenti. Amen. Anzi, volevo ricominciare. Qualcuno vuole bere, stasera facciamo offerta libera. Quindi ordinate quello che volete, poi passerò io col cappello in ginocchio. E farai la collezione della Key Scent. Sono quelli da un bottoni anche. Perché bottoni vale molto. Lacci di scarpa. Sì, sì. A volte trovare un bottone è difficilissimo. Trovare un bottone che funziona. No, trovare il bottone giusto che serve, quello è complicato. Anzi. Che vengano i bottoni. La stanza dei bottoni. Eccolo. Vedi, è già pronta. Ce la so preparata? Grande, già. Così intatto un bottone, per caso. Chissà di quello. Sarà la prossima parola di il filosofica. Bottone o la cena? Bottone, è vero. Attaccare un bottone. Non vuole niente, a parte le poche cose. Bottone è anche del migliore. No, per adesso no. Ti ringrazio, va bene così. Botton d'oro, la fiaba di Botton d'oro. La conosci? Sì. Botton d'oro è il mio saccino. Quindi potrei anche dire che non la conosco. Io ho un cartone di... Un bottone è... Anche una grossa botta, forse. Una grossa botta. Già. Che botta, cazzo, che botta. Hai un bottone. Ah, no, appoggio leggermente, già mi fa un po' leggero. Comodità. Leggero comodità. No, invece stasera volevo che parlassimo di cessi. O meglio, punti. No, precisiamo. Sei troppo delimitato. No, non è esattamente cesso per poi ampliare il discorso. Esatto. No, nel senso che l'altra volta avevamo parlato dell'onda e eravamo stati sempre molto nel fisico, non dico nell'astratto, ma comunque. Allora ho detto, proviamo questa volta a indagare una parola che è più. Sembrerebbe più infima, comunque. Voglio vedere cosa succede allora con una parola del genere. Allora avevo scelto bagno. Bagno in molti sensi, perché noi diciamo bagno, intendiamo la stanza da bagno, ma bagno può essere appunto in vari sensi, ma probabilmente questa è una previsione, ma che spero anche si smentisca, probabilmente non è tanto nei significati di questa parola, ma nella grande densità di esperienze che dovrebbe racchiudere per noi tutti questa parola, perché comunque si infila dappertutto, veramente c'è, non ne possiamo fare a meno noi occidentali del bagno, in qualche modo, in quel bagno lido. A parte i francesi. Parte francesi dicono, però per esempio dicono, per esempio in Oriente sono convinti che l'europeo non si sa lavare. Non solo in Oriente, anche in America. Sì. Ah sì? In che senso? Come si lavano loro? Poi si lavano loro. Sicuramente con qualche metro cubo di acqua in meno. Perché sì, però c'hanno i vapori. Per esempio loro, avevo letto una testimonianza di un tipo che appunto teneva un bagno, non so se in Turchia o in Russia, non mi ricordo più, e diceva, incredibile quando laviamo gli europei quanto nero viene nell'acqua che usiamo. Quando, questo non succede quando ci laviamo noi qui, no? Perché evidentemente noi ci laviamo spesso, ma non approfonditamente probabilmente. Mentre loro col vapore hanno tantissime tecniche, io manco me le ricordo, ma delle cose che non avevo mai sentito, insomma. Poi comunque il bagno è anche l'aspetto, diciamo, purificatorio, purificatore, no? Adesso ci sta in tutte le religioni. Certo, l'abluzione, il battesimo. Si chiama quello indiano, no? L'immergersi nel Gange per purificarsi. Sì, certo. Oppure Tahara in arabo, che sarebbe le abluzioni, così via. Sì, sì. fino al battesimo. Certo. Il bagno inteso in senso, diciamo, così come una purificazione, mm-hmm, ci sta in tutti i popoli. Ci sono anche quelli più, tra virgolette, primitivi, si buttavano nei laghi, che ne so, nei fiumi. Cioè, quando si poteva, quando erano puliti. Ha una dimensione di rinascita molto forte, perché comunque immergersi nell'acqua significa ritornare al liquido amniotico, alla rinascita. Tra l'altro la nostra formazione cellulare avviene all'interno di un bagno, di un liquido. A bagno in qualche modo. A bagno Maria. Siamo tutti figli di Maria, a bagno Maria. Esatto. Certo che il liquido amniotico è un po' più diverso rispetto all'acqua di cui parliamo. Chiaro. Noi ci buttiamo in un'acqua pura, diciamo così. Però, quindi ecco perché purificarsi. Penso. Però ritualmente comunque il senso della rinascita, si parla di immergersi come dimensioni. Il battesimo di Sidacchio è un nome. È comunque una nuova vita, un nuovo giorno, una nuova vita diversa. No? Cioè immergersi nel liquido rappresenta sempre un... Sciacquarsi la faccia la mattina. Una punteggiatura della vita. Mm. Anche sciacquarsi la faccia la mattina ha un valore anche simbolico, a parte... È il momento prima che tu ti guardi negli occhi e pensi. Vedi? Che brutto. È il momento on. Premi il tasto no, on. Man in the mirror. Michael Jackson. Sì, quando ci si lava la mattina di solito l'acqua fresca in faccia, insomma, si parte, adesso partiamo per la giornata. No? Di solito. Dipende da quanto è bevuto poi, quante sciacquate di faccia. Certo. Se meglio il glatimento è bevuto. Con la sabbia dici non viene, no? No. I bagni di sabbia. No. Però si usa i bagni di fango, cioè, per esempio. Anche di letame, se vogliamo. Bagni di letame. No, letame esagero, ma in realtà il bagno nel fieno, però diciamo un po' così, parlo lo spacco, i bagni del letame. Si usa per levare reumatismi, cose di genere. Così. Ma in realtà dietro c'è un letto che sta in movimento, nel decomposizione, esatto, quindi crea, sviluppa vapore, così via, e calore soprattutto, quindi esistono. Comunque, cioè, il corpo è abbastanza intelligente in questo, cioè scambia un grasso di un certo livello solo con un grasso migliore, cioè per esempio il principio del sapone e dell'acqua. Cioè il sapone è un grasso modificato che scioglie altri grassi. Mm-hmm. E nasce sempre da che grasso di partenza si usa. Perché dalle ossa animali. Il principio è che il corpo funziona che scambia un grasso più nobile con un grasso meno nobile, mai il contrario. Quindi anche per questo ci sono gli oli essenziali, gli oli di germe di grano, il sapone di germe di grano, perché sono tutti oli più ricchi, più nobili, che permettono uno scambio con invece il grasso che c'hai accumulato come sporco. Quindi il sapone ci porterebbe qualcosa di migliore, che per quello che la pelle magari... Ma non solo il sapone, anche l'olio... Mm-hmm. Per quello che la pelle migliora, diciamo, alcuni dicono, diventa più morbida, tutte queste storie qui. Sì, perché c'è uno scambio, un salto di livello. Poi c'è la famosa poppea, si faceva il bagno nel latte d'asina, no? Sì. Un po' mitologia, un po' storia romana. L'ho fatto pure quello, SPQR. Quindi il latte. Oggi sei cinematografico. Oggi cinematografico. Tra l'altro il bagno. C'è da questa vena di schifezza che ci vuole, cioè di commerciale stasera. Sono partita da Michael Jackson, sono arrivata a Vanzina, cioè scendendo livello. Vabbè, tu sei arrivata alla merda. Vabbè, no. No. Tu hai detto la l'etame. L'etame non è considerato, l'etame è dell'organico in decomposizione, che di solito è molto nobile perché è un ottimo concime, ma poi non puzza, non devi pensare alla puzza. No, l'ho ma visto dipende quale tipo di letame. Io parlavo prima del fieno in decomposizione, che, in cui si fanno anche dei bagni, anche lo, si usa, realmente sì, si usa, bagno di fieno. Antitalia, si usa, si fanno i bagni di fieno, nel fieno, secondo me, sì, si fanno. Quindi non è una parolaccia, sì. Perlomeno a me l'etame non mi fa. Poi mi si fanno anche del sì, brutto, mi dà l'idea del fertilizzante, semmai, di qualcosa che è ricca. Si fanno marcire le foglie, per sì, esempio, esatto, sì, ma pensi alla, allo sterco in fermentazione, quella è un'altra cosa, ma se noi parliamo di un fieno, delle foglie, degli alberi, questo in questo senso. L'humus è anche altro, si dice, l'humus può anche derivare da parte liquida, anche, sì, però diciamo così. Adesso dal bagno, diciamo, purificatore, siamo arrivati al bagno, diciamo così, il bagno lo faccio sì, caldo, di calore, di calore. Poi ci sono d'estate il bagno. Nella vasca. A mare. Bagno di sole. Mare. Bagno di sole. Bagno di sole. Di luce. Bagno di sole. Si sa anche il bagno di gong adesso. Ah sì, è vero. Fanno i bagni di gong. Sì, sì. A 432. Sì, sì. Comunque quello sono stato praticamente, c'hai cioè davanti ma 4-5 gong, quelli più agguerriti, no? Cioè, hanno veramente una specie di parete di gong davanti, te le suonano con queste mazze veramente, e tu sei steso, sei veramente dentro il suono, ma emerge sì, proprio come un bagno di suono. Eh sì, è proprio, è una bella esperienza qua, anche ormai è abbastanza di moda anche. Sì sì, funziona. Sì, perché è una cosa un po' orientaleggiante, legato allo yoga. Adesso c'è il festival. Ci sono andato l'anno scorso. Bagni di gomma. Li facevano lì. Allora un subacqueo è perfetto per indicarci per parlarci delle sensazioni di liquido dell'acqua, in questo caso, nel bagno proprio, in profondità. Bello. Però c'è anche il naufragare, no? Suicidarsi, buttarsi in fiume, ha un purificatore anche quello è un bagno che uccide, diciamo. Esatto, sì, sì. Non ho mai capito perché certi suicidi li rappresentano buttarsi giù da un ponte nel fiume, anche nel cinema, insomma. Suicidio è una parola troppo importante, cioè, ci sono ponti sul fiume, capirlo. Ponti da altre parti. Perché una volta che cadi finisce tutto, così, in questo senso, tu ti butti in una cosa e finisci là. È il trapasso della paura c'è sempre, sia per uno che si suicida, non lo so, io non capisco quel discorso, però è assurdo. Forte, sì. Sì, perché l'acqua un po' ti raccoglie. L'acqua uccide, gli alluvioni, i disastri. Ti porta via, sì, così. Sì, certo. Bagno mortale. C'è i titoli di Criminal, Titanic, bagno mortale. Anche un bagno secondo. Sì. Un bagno d'umiltà. Ah, ecco. Perché noi abbiamo sempre la percezione che immergersi in qualcosa vuol dire lasciarsi permeare da quello in cui si immerge. C'è sempre un po' la paura. C'è la paura, ma c'è anche il bisogno, e anche la volontà di perdersi, perché sì, poi... perché è piacevole a un certo punto. Intanto, per esempio, nel bagno si perde peso, in qualunque tipo, entrando in un elemento diverso dall'aria, principio di Archimede, no? Si cambia proprio la gravità, percezione del movimento. Si ha una percezione di una densità diversa a contatto col corpo, cioè proprio a livello di sensazioni fisiche è decisamente diverso. Cioè è anche un perdersi, ma anche trovarsi in una situazione completamente nuova. Beh, ci sono anche dei cambiamenti fisici anche evidenti, insomma, quando stai troppo, per esempio, in acqua, nel mare. La pelle e le mani cambiano. Quindi c'è proprio uno scambio chimico sempre attivo. Il bagno chimico. Ecco. In mare comunque qualcosa si scambia, ecco, Ma quindi bagno, ad esempio, no? C'era nella tua presentazione il fatto che ci si chiude in bagno. Quindi il bagno è quel luogo che, dove appunto è un luogo diverso dal solito. È un altrove che ti permette appunto di chiuderti dentro e farti i fatti tuoi, no? È un altrove dove tu appunto ti perdi in altro, cioè ti immergi in altro del solito, no? Tutti i bagni. A sempre a disposizione, esatto, tutti, qualsiasi bagno di sole, bagno di umiltà, bagno, è una cosa che ti cambia, uno stacco, esatto, uno stacco da quello che diciamo prima, una punteggia, cioè qualunque momento legato al bagno rappresenta un po' una punteggiatura del respiro della propria identità, esatto, un punto, una delle cose, quindi vedi, è una parola proprio molto A me capita in feste magari molto affollate, incasinate, dopo mi piace quando si va al bagno sostare dentro il bagno, perché senti tutti fuori, no? Tu sei casino, e tu sei un attimo da un'altra parte, no? E ti godi un po' così. E poi il bagno è il posto dove si canta più, perché acusticamente le piastrelle hanno tutto un altro livello. Si mette a fiato. Vai ad esercitare, il posto migliore per esercitarsi è il bagno proprio, insomma, perché c'è un ritorno. Quando non sei bravo, quelli che c'hai intorno. No, ma perché c'è un ritorno proprio, certo, il suono, sì, che cioè, ma anche la voce, cioè è proprio di percezione, è proprio abbastanza spontanea, sì, da canticchiare sotto la doccia, sì, perché sì, proprio il suono che c'è. E poi quando sei bambino, no? E allora vuoi uscire da quel bagno? Proprio, no? Che ci sei cascato. Che è proprio il luogo dove ti permette di stare di più. Basta, quel cazzo di tempo che mi pare qua dentro. Poi per un certo verso è anche una delle stanze anche fisicamente più aperte, perché avendo tutti questi tubi, adesso le case moderne sono abbastanza, non è che senti tanto nelle altre stanze vicini sopra, mentre nel bagno, cioè, si nota, si sentono di più di solito i rumori da sopra o da sotto, perché appunto essendo una stanza un po' aperta, con questi buchi, questi tubi che si infilano sopra, in genere non è che esce il coccodrillo, no? Però si sente di più, perché se non fa una logica metropolitana, da bambino sentivo la lavatrice della vicina sopra, anche quando pisciava qualcuno si sentiva quel rumore, del bagno, il rumore da musica, i bagni anche rappresentano un momento di collettività, un colcoz del condominio praticamente. Ci sono condomini dove quando uno tira l'acqua nel tuo cesso fa la bolla. Mamma mia, perché sono tutti collegati, cioè, sì, è l'ultimo, c'è un tubo unico, esatto. Che brutto destino, comunismo reale, non muore, Alberto, non muore. Poi quando fai le infiltrazioni, per esempio, che gli viene la macchia, quello di sotto, il bagno, Il bagno è un motivo di conoscenza e di conflitto. Però il bagno è un posto delicato. Però bisogna fare differenza veramente tra bagno e cesso, chiedo scusa per la parola forte. C'è una bella differenza. Il bagno di cui parlavi tu, quindi cioè, cerchi il tuo spazio, dove vuoi rilassarti, vuoi stare con la tua intimità persino, il tuo pudore se vogliamo. Quindi uno, invece il cesso è toccata e fuga. Secondo me il bagno a casa tua, il cesso è il contrario di casa tua, è la forma di confessione. A volte entri in certe bettole e cazzarola, non ti puoi muovere, verrai pisciato per terra. Ma alcuni luoghi, ti giuro, ma ora siamo a Roma, rapporto con succede feste o che ne so, ma dimostri la tua intimità con quello spazio, come il bagno turco, perché per esempio non riesci a fare tutto in tutti i bagni, insomma, c'è bisogno di riconoscerlo come tuo bagno in qualche modo, per sentirti libero fino in fondo. Ci vuole un po' di sicurezza, sentirsi a proprio agio. In tutti gli esseri umani. Non sentiamo Simona cosa ci dice a proposito del bagno. Non ci stavo ancora pensando. Non ho ancora elaborato. Che cos'è il bagno? tu che sei un po' orientalista, no? Un po' buddista, cioè, un luogo dove immergersi anche. Così Kumbh Mela, la festa, la Kumbh Mela, quella grande festa indiana che fanno, dove si immergono in questo Gange, questo grande fiume, che adesso addirittura le autorità, stavo leggendo da poco, vorrebbero vietarlo, e lì ci sarebbe la rivoluzione, anche sono il colera, milioni, vedete, ti sfasciano tutto, e quindi il bagno diventa anche fanatismo. Cioè, mi bagno lì perché sennò non valgo. E certo, il bagno, infatti adesso chi lo fa sempre più bello dell'altro, mentre le funzioni devono essere un bel... Sì, il bagno. Quello non deve essere un mega coso. E lì diventa un salotto, quindi veramente cambia la funzione. Ti puoi mettere lì sdraiato a leggere addirittura e guardarti la TV. Diventa un piacere continuo, lì stupendo. Tutta casa è un bagno in pratica. Sì. Beh, anche le abluzioni rituali prima di andare in guerra, nel Mahabharata è proprio pieno dei Pandava, dei Kaurava che si lavano prima di andare in guerra. E anche nella dimensione occidentale, nella mitologia occidentale, se ci pensate, il sacrificio del capro è un bagno di sangue. Cioè si lava, si fa in modo che il farmacos, che il capro espiatorio appunto, butti il sangue per evitare che si versi il sangue dei guerrieri. Sacrificio. Anche sacrificio, se poi lo facevano anche tra umani, tantissime popolazioni, adesso ce ne sono diverse, il cannibalismo addirittura. Parliamo di cose toste, eppure l'essere umano è arrivato a fare questo. Tu mi dirai, sono dei selvaggi, quello che cavolo te pare, ma è sempre un essere umano. Poi adesso non lo sono più, tante popolazioni delle Tahiti, Polinesia, ma anche in Africa. Sì, fino agli anni 50 c'era in alcuni luoghi. Io conoscevo una persona che faceva missionario laico, e era stato il primo missionario in Papua Nuova Guinea, in un posto della Papua Nuova Guinea, a non essere mangiato. Era risultato un po' indigesto. Quello prima di lui aveva mangiato. Tutti quelli che sono stati mangiati. Sì, esatto. Anche quello è un altro bagno dentro lo stomaco. Comunque devo dire che il bagno è un posto utopico. Perché se ci pensate, lo sciacquone è uno dei pochi modi che rimane nella vita quotidiana di percezione, è un momento di soddisfazione in cui gli stronzi svaniscono. Vabbè, no, il bagno di stronzi svaniscono e non tornano più. È come partorire in un certo senso. Sì, ma proprio lo sciacquone, proprio come dimensione liberatoria, via come suono, qualcosa che. C'era via e va via e non tornerà mai più. Cioè, assume un valore quasi catartico. È vero. Beh, il bagno di quel film, la grande abbuffata, aveva ridato tutto indietro, no? Quando scoppia in onda tutta la casa. Questo è successo anche alla nostra amica Simona. Sì, no? Che si è riparato il bagno della sua associazione culturale, funzionava al contrario. Noi dovevamo fare il concerto quella sera e è stato rinviato per l'impraticabilità del campo. No, si sa, il tipo di spettacolo, però augurate che farà bene, si dice merda. Merda, no? Sarebbe andato benissimo, Marco. Però ha voluto approfittare di questa grande occasione. E sei ripianti, qualcuno bisogna pure avere. Il bagno ci accomuna anche agli animali, infatti ce ne sono molti che fanno, per esempio lì fanno dei bagni di polvere. Anche in acqua lo fanno i passerotti. I passerotti lo fanno sia nella polvere che in acqua. Anche i piccioni l'ho visto nelle fontane che si lavano. Sì. Molti animali lo fanno nel fango. Sì. Quindi loro ci mostrano anche tanto. Come gli elefanti lo fanno nel fango. Per esempio. Fanno, certo. Per togliersi i parassiti, per grattare. C'è la funzione proprio anche lì, comunque di lavarsi, no? Ma anche il talco si usava sui neonati per, in un certo senso, per fargli un bagnetto. Il talco, sì, il profumarlo, ma è anche lavarlo in un certo senso. Sì, l'assorbe dalla esatto, sì. È depurativa, il bagno di argilla verde è depurativa, cioè sì, sì. Stare a contatto con l'argilla fa in modo che l'argilla assorba. Si fanno i fanghi proprio, eh sì. Sì, sì. Le sabbiature, i fanghi. Mm. E proprio esci, io mi ricordo che la pelle cambia tantissimo, ti sembra liscio, sì, tipo da bambino un po'. Beh, ti toglie un sacco di scoglie. Sì, è molto evidente il cambiamento. Quindi il bagno non è solamente di acqua. No, decisamente. Puoi farlo con qualsiasi cosa, in realtà. Tra cui mi dicevi anche un procedimento chimico che è usatissimo, tra l'altro, oggi. E lo chiamano bagno, no? Che quello. Esce il bagno chimico. Poi ci sono anche i bagni metaforici, che sono tantissimi, che se noi pensiamo che sono un bagno di luce, un bagno di sole, un bagno di riposo ristoratore, cioè, ci sono tante metafore che indicano il bagno come un qualcosa di totale, se vogliamo. I bagni di sole. Sì, il bagno è qualcosa di anche di rilassante, di bello. Certo, sì. Questi bagni chimici. Mi immergo nella musica, nel suono. Un bagno di folla, un bagno di musica. Il bagno di folla. Folla. Bagno di folla. Anche lì c'è qualcosa di rituale. Di solito il bagno di folla è quando, non so, un politico, no? Sì. A questi comizi. Radunate oceani. Sì. Il bagno di folla è comunque. Segno di successo, rockstar, esatto. No, i bagni chimici è un procedimento, ma è usatissimo con qualsiasi elemento, si può fare, viene usato veramente. Guardando sull'enciclopedia avevo visto una sfilza incredibile: bagno di nickel, bagno di argento, sì, bagno. Sì, si messi a rivestire esatto. I metalli poco nobili, di metallo nobile. E usano le cariche elettriche, no? Sì, per spingere. Sì, una cosa, elettrolisi, qualcosa del genere, sì. Elettroforesi, anche. Vedi? Forensi. Si usa anche come terapia. Infatti l'elettroforesi. Se c'hai, cioè io l'ho fatta quando c'avevo il ginocchio infiammato. Allora ti mettono due piastre, uno c'è il farmaco e una no. Uno è positivo, uno è negativo, e quindi il farmaco. Si crea una trasmissione proprio. Il farmaco si carica si ionizza praticamente. E passa da una piastra all'altra, quindi attraversando tutta la parte. Quindi un bagno terapeutico. E si fa immersi in un liquido? No, sono così. Due piastre. No, perché una piastra a secco. Sì, è tanto l'acqua ce l'hai tu. Per fare l'ottimità, siamo comunque siamo acqua anche noi. Bagno dinamico, diciamo questo. Sì, serve a far muovere da più a meno, da meno a più, a seconda di. Sì, esatto, diciamo l'elettromagnetismo, se vogliamo. Quindi il pesce sarebbe un animale che è in un bagno permanente. Forse il pesce è nel bagno nell'aria. Nell'aria. Oppure noi siamo in un bagno nell'aria. È un bagno dei pesci. In che fluido pensi di essere immerso? Sì. Però se ci fate caso, anche i pesci si sono costruiti un vestito sott'acqua per non essere consumati dall'acqua. Tu prima dicevi che gli umani diventano un po' come quelli di un bambino morbide. Infatti alcuni pesci hanno gli squami, altri hanno una specie di viscido sopra. Poi tanto grasso di, come le orche. Sì, cioè, ognuno c'ha la sua difesa. Vero? Bagno, sì, il bagno può anche far male, quindi. Certo. Usarlo, sì. Per me. Noi facciamo bagni temporanei, naturalmente. Però quindi chiamiamo bagno una situazione in qualche modo relativa, quando ci immergiamo in qualcosa che è diverso da quello in cui in realtà siamo immersi sempre, cioè, ma perché che se noi sì. È una questione di prospettiva, quindi il bagno, insomma, quando tu decidi di uscire dal quotidiano, metterti in un'arancia, anzi non sai che mi dai il pepino bianco, esatto, un po' di arancia, o almeno un tempo per te stesso. Il bagno segna molto il tempo per te stesso, quando si dice non ci ho voluto manco il tempo andare in bagno, è vero. La mia ora preferita è il bagno alle 6 di sera nell'acqua e sale, nella vasca da bagno. Ci passo un'ora con la musica accesa e lì levo tutto quello che non va bene della giornata e poi mi sveglio come un bambino. Acqua calda. Acqua calda, esatto. Salata, che bello. Sì. Con un liquido amniotico. Con le luci soffuse? Sì. Ah, la diventa, musica il diventa telefono. Un bagno a luce rosse praticamente. No, faccio anche delle grandi telefonate spirituali con i miei amici vedici di scienza vedica e parliamo dei pianeti mentre sei immersa nella sì. Evidentemente è una situazione che ti permette di meditare profondamente, che non ti porta distrazioni, permette di introspezioni, così stare più a contatto con se stessi, concentrati. Sì, ma è anche oddio, a tanti piace il bagno inverno, anche perché hai freddo, metterci tanto nell'acqua sì, calda ti riprende il calore quando vai lì alle io odio la doccia, è fantastico. Quando vai alle terme dell'acqua calda lì a bello sì. E puoi stare anche ore e ore lì. Infatti d'estate non è bello, d'inverno sì, che fa freddo. Fuori, non c'è freddo fuori, l'acqua c'è... è caldissima. Ma d'estate, per esempio, se ci vai alle 3 di notte. Ah sì, d'estate. Te lo vuoi andare di notte. È ancora più bello. A proposito di bagni caldi, noi siamo andati diverse volte a Ficoncella, la Civita Vecchia, le terme. Queste terme sono formate da dei pozzi più o meno diciamo di diverse dimensioni. Qualcuno può contenere 10 persone, un altro può contenere 20, un altro 5. Però è una cosa antica romana, proprio scavati dentro questa, molto bello. A un certo punto ci sono alcuni e ogni pozzo c'ha la sua temperatura. Perché come scendere, i più caldi stanno all'ingresso, poi piano facendo girare l'acqua, si arriva a temperature sopportabili. Mentre noi abbiamo fatto questo bagno caldo, ma insomma sopportabile, stavamo da Dio tutto sommato. A un certo punto stavamo andando via, c'era una signora nella pozza più calda in assoluto, era rossa. Io dico, ma come cazzo c'è cioè, fa a resistere? Ti giuro, nessuno ti ricordi? Era diventata rossa come un pomodoro. Quando dicevo ma si sentiva bene, sì, ti ricordi? Neanche il bagno sul fuoco o su altre. Beh, in effetti la bollitura è un bagno. Eh certo, no, bagno. Spiegaglielo alle aragoste. Avevo letto mentre leggevo bagno così la saga del bagno nell'impero romano, perché i romani erano dei furbastri come al solito, ma loro hanno dato grande importanza alla costruzione dei bagni, in particolare pubblici ma anche privati, dei ricconi, insomma, e veramente era una cosa fortissima, sentitissima, era anche un banco di prova per gli architetti. Costruire queste strutture anche molto grosse, anche mi sembra che sì, è famoso un architetto che si chiama Orata. Orata come il pesce. Che fu il primo a inventare il sistema di riscaldamento. Praticamente lui era riuscito a pensare di costruire i pavimenti sopra delle colonnine in modo che tutto fosse vuoto sotto. E poi usando dei mattoni traforati riusciva a far passare l'aria in giro, e questo sistema che ha inventato questo tipo si è diffuso in tutto l'impero ed è diventato uno standard pazzesco. È stata un'innovazione magnifica per questi, perché riuscivano con un po' minore spesa a scaldare veramente tutto. Ed è interessante anche lo sviluppo e il declino del bagno tra i romani, perché diciamo che all'inizio erano costruzioni molto semplici che servivano proprio per la pulizia quotidiana, erano delle cose di solito all'interno della città, dove tutti, a bassissimo costo, era gestito di solito da degli incaricati da parte dello Stato. Sì, erano pubbliche, esatto. Quindi erano situazioni molto semplici, però pulite, tenute bene, dove ovviamente ci si incontrava per bagnarsi, ma anche perché loro facevano anche tutto insieme, i romani. Anche il cesso nostro non era una cosa privata. Sì, era tutto pubblico. Quando ci penso io, penso che... Guarda, a Ostia, così, no, ma diciamo che il bagno si faceva fuori una volta con il cesso, perché non doveva essere costruito, perlomeno anche nella cultura, diciamo, così. Orientale, così, perché è sporco, immondo, cioè non puoi mettere un bagno, perché allora noi non c'era... Noi dovevamo fuori, sì. Mi ricordo mia nonna, cioè andava fuori al bagno, cioè non è una cosa antichissima, comunque è una cosa vecchia, perché ormai... Non costa molto avere un bagno e costruire un bagno, come si deve anche dentro una casa, quindi diventa una cosa molto... Certo. Esatto, è diverso. Certo. Sì. Ma per esempio anche il hammam, che è una parola araba che insomma, è conosciuto come bagno turco in realtà, vengono dai romani, cioè loro hanno preso molto dalle terme romane, con la caduta dell'impero, diciamo, bizantino, gli arabi sono arrivati un po' dappertutto. All'epoca, diciamo, fino al 1000 passa, insomma. E quindi loro avevano rubato all'inizio dei romani, perché i romani c'erano nel Medio Oriente, diciamo, ecco, la stessa Palmira di cui si parla tanto adesso, è una città romana nel cuore della Siria, quindi anche vicino all'Arabia, nel mondo medio orientale. Quindi c'era questa, diciamo così, quest'amore per i bagni, quindi le terme, quindi il hammam deriva da quello, viene da quello, sì. Certo. Esatto, sì. Poi queste costruzioni con il progredire dell'impero diventarono sempre più grandi, più sforzose, e persino cominciarono a perdere la loro funzione di lavacri, in realtà, perché erano ambienti talmente grandi. Per esempio le terme di Caracalla, hanno fatto delle analisi, la stanza del bagno, che sarebbe quella centrale, è talmente grande che non avrebbero mai potuto scaldarla. Quindi è successo in un certo periodo che era proprio una... in realtà facevano più che altro spettacoli, facevano altre cose, giocavano, ma la funzione del bagno lentamente è andata qui in Occidente a perdere la sua importanza, fatta in quel modo, mentre, come dicevi tu, in Oriente è rimasto, mentre da noi, cioè già i romani da noi avevano perso lentamente nei secoli questa cosa qua, questa abitudine, questo piacere. In piccolo il hammam imita le terme, dicevo prima, certo. Infatti nel hammam c'è la parte esterna, diciamo la sala dove ci sono dove ci sono i letti, perché si può anche si riposa riposare. Di solito dopo si riposa, il sito, ci si rilassa, e quindi poi c'è la parte, diciamo, finale, dove si esce, quindi tu entri e poi c'è una zona che chiamiamo la tepidarium, che in realtà c'è una prima porta, poi c'è tra quella in cui entri e l'altra del hammam, proprio della sala dove c'è l'acqua, sono separati, quindi è uno spazio in cui i romani, durante quando c'erano i tepidarium, chiacchieravano, discutevano, no? Prima di entrare nella zona calda, o viceversa. Nel hammam non è proprio così, ma diciamo tu entri nella parte più tiepida per abituarti un pochino al freddo, così da noi, nel Nord Africa in questo caso, Maghreb. E poi entri direttamente nella stanza calda, che praticamente sotto c'è una caldaia, un fuoco, sì, sì. Ci sono delle zone dove ti siedi, poi c'è ogni angolo, c'è un rubinetto di acqua calda e un rubinettino di acqua calda, e separati con questi antichi, separati con due muretti, diciamo. Sì. Tu c'è il tuo spazietto, ti metti seduto direttamente sui mattoni, oppure le piastrelle, piastrelle, mattoni, quello che vuoi, tutti i tipi ci stanno, sì, marmi di solito per l'acqua. e tu senti l'acqua che ti cade dal tetto, plum, le gocce fredde che ti colpiscono a volte, c'è il vapore e ci sono persone che ti fanno massaggio, massaggio. Ti lavano ti proprio, lavano, fanno... ti lavano, sì, ti stufino, sì, come si chiama in italiano? Peeling, si chiama poi così. Ti sciacquano pure, sì, si chiama. Così, sì, ti raschiano proprio, sì, sì. Però ti piegano, ti fanno, ti senti da Dio quando esci. Ma Paola, poi io purtroppo non ho avuto questa fortuna perché dopo un po' svenivo. si abbassava la pressione, cazzarola sveniva. Non ho mai avuto il piacere. Così a fondo. No, non c'è so perché. Perché insomma c'era un sauna, ci sono palestre, sauna. C'è sta il coso, la sauna. Sì, la sauna sarebbe un bagno di sudore, viene chiamata anche un po' diverso, sì. Quello si usa in Finlandia, quei posti lì, se non sbaglio. Sì, la palestra. Nelle palestre si usa ancora, no? Sì, sì, legno. C'è, sì. Però in teoria lì poi esci di butti nella neve. Tanto poi c'è questo suono che famosissimo che tanto abbiamo appena sentito. Esatto. La musica dello sciacquone. La musica dello sciacquone. Per tutti quelli uguali. Vicino. Ah, quella volta lo sciacquone veramente fa la sua musica da parte di scherzi. Quando a volte non carica bene oppure c'è una piccola perdita, senti delle gocce. Diventa quasi una musica. Non so se vi è capitato, ma l'ho notato. Immagina il silenzio e tutto, sì. Sì, è anche fastidioso perché consumi un sacco d'acqua. Soprattutto. No, non credo. Comunque sto scoprendo, mia sorella sta rifacendosi il bagno adesso. Siamo in un momento di grande innovazione dei sanitari. Adesso li fanno veramente... li fanno sospesi? Sospesi. Ma a parte adesso... Sì, che sì, esatto, bide anche tu che fare, sì, no, per pulire meglio, poter pulire sotto, poter pulire, sì, quelli antichi facevano dietro, sì, adesso vanno di super moda questi qua, ma io per andare a pulire adesso quando poi sotto, no, devi scendere la schiappa che comunque si cosa quello che succede sotto. Quinto con il ventilatore, io lo vedo essere molto pregato. Ho visto quelli, io faccio la pure. Io ho visto anche i luoghi pubblici, anche i luoghi pubblici, tipo aeroporti, penso che perché sono facili da, per la manutenzione, per chi pulisce, per i robot puliscono automaticamente. Esatto. Quelli che camminano. Poi adesso c'è quella, cominciano a fare anche quella doccia che la stacchi dal muro accanto al sanitario, no? Accanto al vicino. C'è questa doccia che la stacchi, ti lavi direttamente dentro. Quella la usano in Francia. Dove io l'ho trovata anche in Francia. Adesso sta diventando di moda anche da noi, la stanno usando. Sì. Usare lo spazio. Sì. Lo spazio, sì, no. Esatto. Sì, io alcuni alberghi non c'erano il bidet, per cui usavano quello, si usano quelli, sì, esatto. Sì. C'è la doccia, c'è il reparto della bella, ci sono 3 anni così, sì, quando c'è un locale a fianco, non c'è il bidet, ho fatto un po' di idraulica dolcetta. E altra innovazione, il nostro caro vecchio, ho visto questo sistema, ah sì? Il nostro caro vecchio sciacquone sembra che sarà sostituito, perché adesso l'acqua viene giù da sopra e è la gravità che la tira giù, no? E c'è la parte... Mentre adesso stanno inventando dei sistemi dove invece di usare questi 9 litri, 7 o 9 litri si usano adesso, ne usano 4 e con dei sistemi te la fanno girare intorno. L'acqua non la sparano giù così, ma la fanno girare intorno con dei sistemi. Sì, sì. Quindi te lo lava. Sempre a discesa, però. Sempre a discesa, però non fa più. Cosa di gravità? Ah, fa un bene. Succhia, succhia. Gorgoglia, non è più il vecchio liberatorio. Ma quello lo sentiamo già sugli aerei, una cosa esatto. Del genere già esiste. Esatto. Che ti succhia, ti succhia. È inquietante. Sembra che inquietante, sì, c'era una barzelletta quando ero bambino che mi raccontavano quando ero bambino che mi piaceva un sacco perché le barzellette sporche. Questo era un gabinetto senza carta igienica, no? Allora questo qua andava al gabinetto, cazzo, la carta igienica non c'è, no? Gabinetto nuovo il nostro, non si usa la carta igienica, c'è uno sportello e dice mettere, pulirsi con il sedere con la mano, no? E poi mettere la mano qua, si pulisce con la mano, mette la mano qua, c'è dietro uno con 2 mattoni, quello tira fuori, il sistema di pulizia, la mano la mette in bocca, no? Perché gli fa male alla mano e se la infila in bocca, questo è il sistema moderno del bagno. senza carta igienica. Abbiamo toccato proprio. Ma è molto ecologico, però è ecologico. Oddio. Niente acqua e niente carta igienica. Sì. Ma neanche discariche, tu. Ma poi nel camper c'era questo oggetto misterioso e molto inquietante, questo bagno chimico, no? Sì, che ogni tanto risvuotato. Comunque io ero se un po' lo svuoti esplode a un certo punto. E per le strade ci sono delle aree di servizio, dei luoghi per lo scarico dei camper, però non tutti gli animali la fanno in un luogo ben preciso, cioè quelli che ti cagano addosso, tipo i piccioni che si fanno, mentre vedi il gatto è pulito, va? C'è il suo bagno, vero? Sì, esatto. Dipende molto da... Anche gli animali ci hanno, anche lì dentro c'è... È una, chiamiamola un'evoluzione. Sì, che poi per molti è anche se il territorio, cioè la propria sì, area, certo, sì. Mentre se prendi un porco non gli frega niente, insomma, ci butta in aria e smette lì, cioè tutt'uno, no? Diventa. Ci sono addirittura le marmotte che nella costruzione dei loro sistemi sotterranei, la marmotta invece fanno proprio delle camere apposta all'interno del loro del sistema di gallerie dove fanno solo quella cosa lì, fanno solo al bagno, insomma, cioè, solo delle stanze da bagno. Sì. Ma se tu pensi che con lo sterco di vacca fino a pochi anni fa si faceva anche nelle campagne molto remote dell'Italia, della Sardegna, me l'ha raccontato un amico mio. Paglia e cacca di mucca, diciamo così, ed era un ottimo isolante, un ottimo cemento. Che non ancora adesso si fa tutti i mesi. Ma poi lo fanno i pastori che stanno a volte in campo. Esatto. Si usa anche per il fuoco, quindi per cucinare. Esatto, prezioso. Sì. Addirittura da quella dell'elefante si fabbrica della fibra, fanno della carta finissima. Sì? In India, ho visto un programma, hanno parlato di questo, sì, viene lavata, fatta macerare così via finché non esci fuori della carta che è più bella del papiro. Beh, quelli sono erbivori che si nutrono, esatto, di fibre, di quelle piante, certo. Per cui dei vegetali, per cui li elaborano. Esatto, sì. Sì, poi insomma anche le feci degli erbivori sono un po' più sopportabili di quelle dei carnivori. Assolutamente sì. Odori, assolutamente sì. Già gli onnivori non ne parliamo, però beh, anche, certo. Anche i carnivori non è male. Sì. Beh, parlando di bagni si doveva. Beh, si arriva al cesso. Guarda, io c'ho anche una bella poesia sul cesso, ma non c'è un libro qua, se non la leggevo. Dici un po'? Nessuno ha già toccato ancora questi argomenti, io ovviamente. Sì, è le cose più scabrose. Perverso, per eccellenza. Intanto per la masturbazione quando sei. Allora, ragazzi, vuoi uscire da quel bagno? Giornalini, ne parlavo prima. L'unico posto dove puoi, no? Poi esatto. Anche della vasca da bagno, no? Bellissimo, no? Orgasmi. No, certo. Diversi, molto più intensi, no? Poi nelle feste non ne parliamo, no? Quella che rimorchi o la ragazza che certo, andare, certo. Ti chiudevi mezz'ora, tutti che bussavano e tu trombavi, no? Certo. E cose di questo genere. Io c'avevo la ragazza che lo guardava dallo spioncino e piangeva. Era il nostro agente, lei ci stava insieme. Si era infilato con un'attrice del bagno e se lo guarda che sta facendo, non usa neanche il preservativo, guardalo, Valentina, piangeva. Che scena. La stessa festa, la donna. Invece da noi, in Algeria in questo caso, quando ero piccolo, mi ricordo che mia madre mi portava il hammam con lei, quindi con le donne, io ero piccolino, ma io mi ricordo benissimo, mi ricordo sì, questa cosa ti dico, una carne femminile a gogo, diciamo così, io stavo lì, a un certo punto io guardavo, no? Un giorno quando sono uscito con mia madre, sempre a mano nella mano, la padrona del hammam l'ha chiamata, signora, suo figlio guarda molto. Un giorno non mi ha più portato. Suo figlio guarda molto. Giuro che bello. Dico, mannaggia. Mi divertivo da... Ciao, buonanotte. Ciao. Anch'io nelle docce comuni dei campeggi che ero bambino, e c'erano due inglesi, mi ricordo che lui e lei che insomma si erano presi bene dentro una doccia, però anche noi non fratelli stavamo più, no, ma a parte non usciva più, ma gridavano proprio. Noi bambini eravamo lì, no, io non dopo mia mamma gli ho detto: ma cosa stavano facendo? Dei tipi strani. sono inglesi. Beh, poi nei bagni, in questo tipo di bagno, ci sono anche molti depravati, ci vanno e come. Anzi, questi qua della stazione, dei luoghi così comuni, esatto. Ci sono e tante letterature. Sì, oh, mamma mia, che roba che c'è! Eh beh, sì. Sì, ma che sì. Cioè, io a volte quando vado lì separati, ti guarda, cos'è sta storia? Ma la pipì ti vergogni. Intanto poi sono quei bagni che sono tutti con le luci a led rosse, viola, per evitare di trovarsi le vene. Ah, questa è la famosa leggenda metropolitana. Ma davvero? Leggenda, io sapevo così. Perché c'erano questi bagni che sembra di essere in un film porno, insomma, con queste luci viola, insomma. E non riesci a vederti le vene. E diciamo che... Da quello che ho capito sono state fatte perché così tu riesci, non riesci a vederti le vene. Secondo me serve per evitare che vedi lo sporco del cesso. Ma perché queste luci? Cioè quelle luci rosse, viola sono dei bagni molto scure. Fatto caso Day night, nelle discoteche, ogni tanto nelle stazioni. Non ci ho mai fatto caso. Nelle discoteche, sono giustamente. Sì, è il McDonald's che ho visto. Sì, però sono appena detto. È veramente che no. Dopo quello che te mangi, cosa ti rimane? Mi fa un prelievo dopo, no? Solo con quello che puoi salvare. Un'analisi. Stabilizzando sei globuli. Che colesterolo. Sì. Una del McDonald's mi raccontava che loro hanno i detergenti che usano quando puliscono, le bustine sono uguali a quelle delle salse, perché è tutto standard, no? La bustina per bambini, il contenuto sia simile, le stesse cose in tutte le filiali per lavare nello stesso modo con gli stessi prodotti. Sì, perché è tutto iper standard, normalizzato. Infatti poi ci sono i bagni dei luoghi pubblici che hanno tutta un'altra identità invece. È chiuso, è rotto. Fuori servizio. C'è un sacco di posti, dei quartieri, no? Dove si tutelano dicendo che è rotto, mi spiace. Quelli che ci lavorano dentro, dico, ci sono alcuni bagni pubblici dove ci sono delle persone che stanno lì sotto tutto il giorno, con il suo odore, comunque. Sì. Veramente bisogna avere del coraggio, non so, penso neanche alla fame ti porta a fare un lavoro così. Cioè una cosa, bisogna avere stomaco, cavolo. E tra l'altro lì non è un problema parlare di bagno di uomini e di donne. No. Adesso li stanno facendo un po' più fuori. Per esempio, voglio dire, entri nelle stazioni di servizio, adesso li fanno persino la signora sta fuori, proprio nel corridoio che porta quasi direttamente dentro. Prima stavano dentro, ed era una cosa veramente ingiusta. Ingiusto il lavoro come un altro. Sì, avevamo un altro. L'onore come un altro. È come suonare la chitarra, uguale. Bisogna vedere se lì anche solo a prendere i soldi o anche a pulire. Ma sì, ma lì poi quelli sono già stipendiati spesso dalla stessa. Perché quelle che tu li lasci una mancia, non sei obbligato. Non sei obbligato a pagare, in realtà non si paga. Loro sono dei sorveglianti. Invece alcuni sono a pagamento, ti ricordi che no, tu non c'eri, stavo in Catania, c'è il bagno alla stazione, c'è un bagno che tu entri, cioè, fai credo la monetina, un biglietto, compri il biglietto, non mi ricordo, una monetina, poi fai così e entri. Tutto a cavolo, io il mio non ha funzionato, stavo così, com'è possibile? A un certo punto mi giro e c'erano, ti giuro, 5-6 persone, uno dietro l'altro, che sono entrati al bagno gratis, io ho pagato, non sono entrato. A un certo punto poi sono entrate altre due, dopo di me l'ho seguite anche io. E sono entrato. Necessità impone. Sì, E lì non capisci più niente, cioè devi... Tra l'altro, devi correre al bagno. Sì. Di solito i maschi non hanno mai visto l'interno dei bagni delle femmine, è il contrario. Cioè non si sa bene. Dipende quanto no, io con tante volte ho sbagliato. No, io al campeggio, cioè abbiamo i bagni proprio vicini. Specialmente a Ferragosto vanno tutti a prendere l'acqua dappertutto, pure nel cesso dei maschi, le femmine. No, cose, ma le donne fanno la fila più lunga perché loro fanno un'operazione lunga rispetto alla nostra. Io vedo sempre sono comunicati allora, le donne da sopra, ci sono 20 donne in fila e gli uomini libero. Però ogni tanto c'è qualche coraggiosa che si sfila a quello degli uomini. Di tutti, giuro, perché è alto, che è aperto ma alto, no? Quindi uomini, poi c'è praticamente tutta Roma Sud. No, chi fa, insomma, mestieri più... Oh, ma che è? Che te sei mangiato? Fanno il che nido dei pini, cioè, stupendo. Dai, eh? Mamma mia. Sì. Tu raccomando. No. E beh, c'è di bello solo un nome, devo dire. Sì, invece quando sono insieme maschi e femmine... Ah, alza la tavoletta, hai pisciato sul bordo, eh sì, sacco di... Secondo me è per quello che li hanno divisi per questo. Sì, anche queste storie qui. Beh, perché il sistema è proprio diverso. No, perché c'è sempre il maniaco che ti si nasconde dentro. Ma scherzi. Ma so no, ma non c'ho paura, no, ma metti, se l'hanno separato un motivo ci sarà. Quindi c'era la promiscuità, chiamiamola così, per essere più... E quindi c'era, sai, uno strusciava l'altro, com'è sta storia? Cioè diventa veramente, allora diventiamo liberi, che se ne frega, va bene così. Però la nostra società funziona ancora così, cioè, sì, sì. Perché rispetto della pulizia, quello dobbiamo essere puliti tutti, non che la donna è più pulita di un uomo, solo perché si siede. Non è, non deve funzionare così. Certo. Perché soprattutto quando trovi un bagno pulito, di solito non vorresti che uno entra dopo di te e lo trova da schifo, cioè... Da fastidio, quindi quello no, non è quello il problema. Infatti, penso che l'hanno fatto per un discorso proprio di promiscuità. Abbiamo parlato per adesso di che è un ambiente personale il bagno, tuo personale in cui ti chiudi, però invece gli sarà ovviamente capitato che a un certo punto della tua vita però devi condividere il bagno con la tua compagna, col tuo compagno, insomma, e diventa tutta un'altra storia, comincia a... dei litigi, a me è subito successo questo, è stato proprio il primo appunto c'è la pipì la tavoletta, che cazzo l'ha inventata sta tavoletta, levamola, che la turca è la migliore di tutti, mettiamo il bagno turco, è migliore, diventi anche geometra, capito, nel frattempo prendere le misure. Insomma, ma è più igienico assolutamente, poi è più democratico, però fa meno bello. Io ho una turca nella casa privata, posso fare più. Beh, ma perché uno ti impedisce di starci le ore di a meditare, è scomodo in quel senso, non ci puoi passare ore e ore col tuo libro, invece la tazza così comoda, stai seduto, porti le parole crociate. Ah, vi devo raccontare questa quando andai a studiare. Io vedi, non c'ho bisogno due giorni non c'ho bisogno di concentrazione per andare. Io la mattina caffè, sigaretta, immediato. Cioè, non so, invece c'avevo il mio ragazzo quando avevo 20 anni che ci stava un'ora e mezza. Se portava i 3-4 giornali, capito? C'è un'ora gli serviva per concentrarsi. Io ho l'immediatezza caffeina nicotina. Tabagismo, capito, che mi aiuta. No, era bella questa quando andai a vedere il castello di Salisburgo, dove c'era l'arcivescovo, no? Nella sua stanza del trono. Il trono c'era il buco, no? E così quando aveva queste udienze lunghissime che doveva star lì, cioè, con queste veste complicatissime. E insomma, era un bagno, ma era anche un seggio. Sì, hai capito. Era qualcosa di. E come si vestivano? Come si comportavano? Cioè, tanto quello che era tutta la corna, e quello con non è lungo e pesante. Si vedeva niente. Ma si vedeva dagli occhi. Soprattutto se era stitico. Chissà. Comunque mi ricordo che mi colpì molto questa cosa, perché vabbè, il sapore del Papa è così, c'è la famosa sera del Papa col buco. Ah, vedi? Ah, vedi? Quello che mi sa che è più o meno la stessa cosa. Sì. Non ci pensiamo mai grandi personaggi così, in qualche modo. Ma il Re Sole è la stessa cosa, era tutto in pubblico. C'erano quelli addetti al vaso del re. Tutto in pubblico, certo. Che storia. Non poteva fare nulla in privato il Re Sole, i personaggi pubblici, era tutto. Però di solito quella la parte di cui parlavamo prima, la poteva parte più intima, no? Dove uno vuole stare da solo. Cioè, voglio dire, ma viene quasi naturale, cioè se tu devi fare delle cose tue in mezzo al pubblico non ti viene. Però se, è un po' difficile, esempio, a meno che tu non stai male, oggi, allora oggi te la fai sotto, ma in linea di massima no. Una volta non esisteva che tu, tu sei dici? Un personaggio pubblico. Sei obbligato, no, ma non c'è vita privata, non è possibile. Davanti agli altri, per forza. Sì. Sì, è vero. Quindi insomma nel bagno è una storia... si modifica nel poi tempo. Gli astronauti anche no, fanno un meccanismo senza gravità, senza gravità, che è tutto uno studio per Se no, se, perché non deve andare disperso in un casino, vi credo che abbiano dei dubbi aspiranti, sì, probabilmente credo. Non ho mai, ma che dici gli astronauti? Astronauti, il bagno deve essere una vicenda spaziale, ah, perché non può andare nulla disperso nell'ambiente, se no va in giro dappertutto. Tutta c'è il ricircolo dell'aria, sì, e poi gli allarmi, che se c'è qualcosa di strano subito bloccano tutto, va tutto in tempo. Devono per forza avere dei tubi che aspirano. Ma vale anche per il cibo, se vogliamo, mangiare qualsiasi cosa, le lacrime, qualsiasi cosa, sì. Vola tutto, devi. Sì. E che voi che libri ci avete al bagno per gli ospiti quando uno si mette per gli ospiti addirittura. Io, cioè, i libretti li devo mettere. Paolo, c'erano le crociate, io prima per usare. C'è Giovanna. Potresti metterle un libro in mano? Tieni la mente. Ti fa compagnia. Te lo regge in mano. Te lo regge. Questo era un po'... No, potresti metterle un libro in mano, cambiarlo ogni settimana? Sì, certo. C'ha la carta igienica in mano. Sì, ecco. Allora tu l'avrebbe compilato. Più colto. Esatto. Più scelto. Ho notato così, anche topograficamente ci sono molti posti, paesini così, che hanno questo nome... bagno, ce n'è uno a Reggio Emilia, bagno di paesini, di Reggio Emilia. Esatto. È divertente bagno di Tivoli. Bagno di Tivoli, sì. C'è questo bagno Romagna. Esatto, c'è questo bagno che ho citato io, che è in provincia di L'Aquila. È interessante, cioè, è divertente un nome che c'è giù a Lecce, che si chiama Santa Maria al Bagno, proprio così. Ma lì è nel senso come marina, nel senso, no? Come spiaggia. Sì, probabilmente sì. Però al bagno, insomma, se vedi la Santa Maria al bagno. No, perché andiamo a noi quattro al bagno, per Dio, la spiaggia. Sì, sì, da chiaro. Ecco. Non sapevo che esistesse questo mostro. No. Ma intanto invece la foto che hai messo del... di te al bagno, che era di un del film. Quello, noi non stiamo in bagno, stiamo qui davanti a un telo verde, quindi come chi. E poi ho preso un bagno da internet, l'ho messo di sfondo. Ho fatto il bilancio colore. L'hai fatta bene perché... Con il collage, i colori mi sono piaciuti anche. Azzurro. Azzurro, celeste, sì. Giocano con la schiuma da barba. Ma l'altra persona è Claudia? No, è un'attrice pugliese. Che è venuta a fare una parte a gennaio. Due giorni. C'è anche qualche attrice, attori che lo fanno di mestiere, sì, penso. Sì, no, sì, 4-5. Ho visto un po'. Tanto l'altro giorno Marco mi ha beccato che stavo suonando la chitarra al bagno. E lui l'ho salvato. No! Dai, davvero? Mi capita spesso, scusa. Infatti ero stupito. Perché c'è la chitarra anche nel bagno, probabilmente. No? La chitarra del bagno. Da bagno. Chitarra da bagno. E comunque anch'io... La passione proprio. Un ricordo importante al bagno. Io mi ricordo che quando cominciai a scrivere la musica, no, il primo pezzo, mi ricordo che non riuscivo a partire. No? Non riuscivo a trovare quell'idea, perché dicevo... Avevo un'idea, poi dicevo, ma perché comincio da questa e non comincio da quest'altra? Che ne avevo varie idee, no? E avevo 16 anni, così. Mi ricordo che al cesso decisi, no, adesso scrivo con questa. Sì. E ho preso la decisione e poi ho scritto la composizione. Ed è la mia prima composizione estesa, quindi è una cosa importante. La decisione era stata presa. Al bagno. Mi ha cagato. Sì, la musica di me. Esatto. La musica di me. Esatto. Ecco. Ma infatti è un posto proprio di per riflettere. Eh sì. Mm-hmm. Sì, di incontro. Ho sentito un suono delle nostre è il tuo che sta finendo ufficialmente la... Ma vi si addormentano mai le gambe sul PC? Qualche volta, se sei troppo che non ti riesci più a alzare perché non c'è più sensibilità alle gambe, devi fare così, alzati dal cesso. Vuol dire che ci sei stato proprio un'ora e mezza? Sì. Non bisogna mai portare i libri interessanti in un bagno, sennò perdi troppo. No, rimani così. Rimani così. Io mi porto sempre libri scientifici valorosissimi, così che so almeno così. E poi quando ti alzi ti resta anche un po' il segno della seggetta sulla pelle, un po'. Sì, sì. A volte. Infatti, è anche bene che non siano troppo comodi. Sì, è vero. Che vabbè, se no dai. Con i chiodi sullo schienale, sì. Non è proprio uno spazio alternativo, ma poi diventa un luogo veramente di soggiorno, un surrogato del soggiorno. C'era gente che si portava a mangiare i panini, come no? Gente che passava la maggior parte del tempo. C'era il film di. Come si chiama? Il fantasma della libertà di Buñuel, dove si andava a mangiare al bagno. L'ho conosciuto! L'ho conosciuto! Il faccino discreto della piccola borghesia. Quello, il faccino discreto della borghesia. Che al bagno si andava a tavola, si fanno col water, si fanno le cose. Invece per mangiare, scusate, vado un attimo di là, andava di là e andava in bagno a mangiare una cosa. Mangiare è sconveniente, no? Per la borghesia, invece a tavola si facevano i bisogni, insomma, erano le sedie, sì, erano tutti i cessi. Tutti i water, tutti i cessi. Era Buñuel, no? Sì. Quindi aveva capovolto, soggiorno e bagno, perché prima dicevi se no si soggiorna troppo in bagno, non c'è più differenza, aveva risolto. C'era venuta la mania, alcune persone che conosco, di avere la televisione assolutamente in bagno. Oddio, di fronte proprio al bar, tutti sedevi. C'era occhio, ma anche secondo me che convinceva la cameriera andare in bagno con lui a mangiare la televisione, con la cameriera. Si doveva vedere dal bagno, dal water e dalla vasca. Imperdibile. Uno dei più famosi e più visti. Claro. Andiamo a vedere per queste cose. Ecco. Allora, con Dalì. Sì. Il film surrealista. Beh, io, cioè, la radio, sì, va bene, ho sentito. Gente con la radio al bagno, sì, mentre fai la doccia. Sì. Certo che se ti metti una bella vasca, come diceva lei, con i sali, ci si sta rilassato, deve essere un'altra musica. Metti il rumore dell'acqua, un momento zen. Ecco, magari le mie puzzano per te fare massaggio. Quella sì. Anche senza esagerazione. Ma anche senza, infatti, ti rilassi, no, ma è anche un momento, sai cosa? Perché a me non piace fare la doccia la mattina, specialmente d'inverno. Sì, nemmeno a me. E allora mi faccio il bagno la sera, tipo tutto gatto. E la mattina poi faccio a mezzi, così. Sì, certo. Se ti vado a letto, ti fai a mezzi la mattina. No, beh, sempre uno si deve comunque sia pulire la mattina. Perché... Però scusate. Che? Mi No! Mi dai l'altro? Mi dai l'altro? E il tuo va ancora? Sì, sì. E perché il tuo va di più? È più scrambo. Hai capito? Non va di più. Così, è più giovane lui, no? Sei più giovane, Marco, tu, basta. Dici, ma io di solito direi che fai finta di non ricordo. Dici che fai finta. Ma per ora fingo bene. Fingo meglio da sempre. No, io non faccio nemmeno più finta. Non faccio nemmeno più finta, basta. Tu sei arrivato te, Lorenzo? Come? Tanti anni è. E sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Sei più grande di lui. So più un po' più grande. Ecco, abbiamo cambiato il registratore. Che roba che subiamo, mazza. Buono. I potenti mezzi. Ne avevamo quattro addirittura oggi. Comunque, in realtà, il bagno dentro la casa da molte culture, molte popolazioni, è visto come una cosa sporchissima, diciamo. Infatti è una cosa veramente disdicevole perché si va fuori nella natura a fare le cose, no? Perché magari fai a casa è una cosa che contamina, appunto, sì. in casa non ha sé, cioè veramente pulirsi, lavarsi, fare dei bisogni eccetera in casa non si fa, no? C'è invece il bagno pubblico dove ci si lava eccetera e nella natura dove si fanno i bisogni. E così succede in molte parti del mondo, tutta la, cioè, in campagna ovviamente, questo certo. Succede. Beh, in quei tempi dei antichi romani era così. Ecco, tu pensa alle isole tipo questi qua di cui parlavamo prima, Haiti ad esempio, Tahiti, Polinesia. Questa gente che praticamente viveva dentro dei paradisi terrestri, pieni di frutta, non dovevano neanche lavorare, poi per lavarsi andavano direttamente al fiume, era pieno di ruscelli, perché gli uomini erano anche pochi, la natura era pulita, non c'era l'esosità, no? distruggere, ci hanno levato anche veramente l'acqua. Sì. Che bello, è il sogno di tutti. Beh, ci sono ancora posti così comuni, per fortuna, nel mondo. Sì, da noi non, cioè qua a Roma non sarebbe niente più possibile. No, certo, ma non ce lo immaginiamo neanche, ma ci sono posti insomma al mondo, ma insomma dove esiste appunto frutta, acqua. La natura generosa, la temperatura costante, estate, inverno, sì. No? Qui è un altro modo di immergersi nel, ecco, allora lì non hai neanche bisogno del bagno, appunto, perché sei sempre in bagno, un eterno bagno, sì, dovrebbe essere un luogo confortevole, no? Il bagno come sinonimo di benessere, ecco, quindi Eden uguale bagno, beh, in un certo senso sì. Il paradiso in bagno vuol dire frutteto in origine, ma però è il giardino frutteto proprio, sì. Però il bagno edenico, ecco, il bagno edenico. No, molto bella questa cosa del bagno di luce che di cui parlavamo prima, a Villa Adriana c'è proprio una stanza che era stata proprio studiata per avere l'esposizione solare più la luminosità più forte possibile e là dentro ci andavano proprio per stare dentro la luce, dentro la luminosità, e perché si diceva che facesse bene all'umore, facesse bene alle idee. Vedi, Villa Adriana. Poi hanno ambientato già questa cosa, adesso le fanno la terapia, come si chiama, la terapia luminosa, ah, sì, la cromoterapia. Sì. Sì, quella dei colori, sì. Che ti fanno dei bombardamenti di luci colorate, sì, per migliorare l'umore, sì, per stimolare la serotonina. Ah, vedi? E invece l'hanno già inventato loro. Sì. Quindi bagnatevi, gente, bagnatevi, bagniamoci. Luce, suono, acqua, aria, acido, pioggia. Non vi è mai capitato di rimanere chiusi nel bagno? In qualcuno si è qualche serata si è chiusi e c'è la, il bordello fuori, no? E bussi, bussi, e pepe, mi fanno di fare. Sì, specialmente nei bagni che non sai come funziona, no? Sì. Sono degli alzoni tuoi. Sì, sì. Sì, sì. Il problema di chiudere, di riuscire. L'unica chance è che qualcuno arrivi in bagno che deve andare in bagno. Che magari ti apre la porta. No, ma come si usa? Ti mani in mano, sì. Adesso è possibile uscire adesso. Devi entrare in bagno. Quando è successo che sono rimasto chiuso? E poi, dopo il delirio, quando riuscivo a uscire, mi sono detto, ma perché cazzo mi sono chiuso? Cioè, non avevo chiuso, mi chiedessi in bagno. E per esempio, ho smesso, cioè, non mai più fare. Ah, proprio hai preso una decisione epocale. Sì. Decisione? Sì, sì. Non c'è un senso chiudersi a chiave in bagno. Ah, sì. Ti ricordi quando sei rimasta chiusa da me? Sì, sì. Chiamare le persone che avevi tirato, perché gli ho detto, guarda che la chiave dentro non funzionava, perché si è tirata, si è chiusa, sì, e poi ti girava un po' il tamburo, ah, si chiama. Praticamente non riuscivamo ad aprirlo, dovevo chiamare un amico, che facciamo, alla fine perché forse bisogna sfondare la porta, io ho detto, perché poi alla fine c'è l'altra soluzione, chiamare un fabbro, stare dentro. A un certo punto ho preso io un cacciavite, che c'è un cacciavite grosso, tipo, proprio l'ho usato come di leva, ho fatto così la porta, essendo di legno, ma quelle tamburate, si è quasi piegata un po', si è quasi piegata fuori, l'ho tirata fuori, senza rompere niente, giusto una scheggiata così, la scheggiata di sì, un pochino. Se non stavo ancora là. Diceva questa porta, io sono, no, ti pingeva, qua il muro, ci facciamo un muro perché... Murata viva! Il cibo dalla finestra, l'acqua del bagno. Le suore che vanno al bagno. Certo, diciamo, però è sempre più difficile immaginare qualche... Se fanno pure il bagno, ci sono le vasche, le luci. Magari se lo fanno vestire, di ma c'era mia bisnonna che pensava che il Papa non andasse in bagno, e lei dice, ma guarda che ci va, scorreggia pure. No, non sto a dirlo, è possibile, è possibile, non può essere. Sì, mia bisnonna, che visione ci vuole, tipo un semidio, e poi fa mia mamma e poi fa delle scorreggie. No! Oddio, non hai la prova, però che poi possa negarlo a priori. Esatto. Non è il caso di negarlo a priori. Oddio, poi debba essere per forza così. Però. Poi nemmeno dire il contrario. No, certo. Niente, perché il nostro Signore Gesù Cristo. Se uomo stavo pensando, guarda, quanto proprio... uomo si è usato essere uomo, oppure quello si è confuso. Assolutamente non poteva esistere, nonostante alcuni eretici ci dicessero. Esatto. E poi sempre c'è uno specchio, è vero, non ho mai capito. per farsi la barba. Il mio era un guardato di per curarsi, per aggiustarsi, per sistemare qua, penso. Proprio l'intervento dei bagni dove lo mettono apposta per non affartarsi nel bagno. Beh, essenziale. Tu trovi in alcuni luoghi se ce lo fanno. Tipo delle scuole. Tu non stai lì a specchiarlo, anche lo specchiarsi non va. C'è il specchio. Tu entri dentro lo specchio, non ti pare, non va. Hai sentito, Marco, dicevamo anche specchiarsi in realtà è un bagno, perché tu ti immergi dentro un altro spazio. È vero, è giusto. In un certo senso sì. È veramente una cosa estendibile a tantissime cose, il bagno, una metafora. Sei il mio bagno, Marco. Tu sei il mio bagno. Sai dirlo alla propria chiesa. Sei il mio padre. Se dici sei il gesso, lo capisce. Invece di dire sei sei un bagno. Sei il mio bagno preferito. È più poetico. Sì. Comunque, ma è sempre lo stesso senso. Il qui è più accettato. Sei il mio cesso. È molto, invece è molto... Sei il mio bici. Molto sei il mio bici preferito. Oppure potresti dire anche bagno delle mie brame. Quello è più bello del tuo reame. E tu guardi dentro. Avevo visto che era Balneus, ma non ho visto. Ah, Balneus, giusto. Sì. Stabilimenti balneari. In che balino? Quindi Pinocchio, quando è finito nella pancia della balena, anche se non era una balena, quando è finito nella pancia della balena, è finito al cesso. Lo dice infatti che puzzava un po' di pesce. E ci trova il padre nel cesso, nella balena, nella pancia della balena. Con la candela che ma si era accampato proprio sì. Era fatto caso la candela trovato il padre lì dentro e stanno finendo i vive e finiscono fuori con la bocca come lo sciampone finiscono fuori con lo sciampone devono stare come due stronzi c'è questa novella di Boccaccio dove descrive uno che cade dentro il cesso. Ah, sì. Quella di Andrino. Andrino da Perugia. Praticamente era un asse tirato tra le due case. Avete caduto direttamente a 40 anni. Sì, praticamente era un biotopo tra due case. Ci tiravano le assi di traverso. Poi dovevi appoggiare lì in mezzo. E quindi quello che facevi andava giù in questi chiassetti, infatti lo chiamo il... un piccolo vicolo praticamente dove cadeva giù dall'alto la roba pensate sì, che poi la pioggia portava via esatto ma pensate che schifo davvero perché c'era la pestilenza mica del caso esatto lì descrive questa novella si svolge a Napoli quindi ecco quello era i vasi da notte venivano scaricati fuori dalle finestre abbastanza tanti complimenti al massimo dell'educazione se uno ci passava per casa era rovinato infatti si raccomandavano per la persona educata avvisa prima di vuotare il vaso sì, guardare bene il maleducato buttava senza complimenti persona educata almeno avvisava dove sto scusate sto attenti su tutto d'altronde non c'era l'asfalto c'era la terra mia madre non avevano ancora i bagni loro in casa usavano i pitali no, no, no, no. e li mettevano sotto il letto e diceva che lei da bambino ogni tanto ci metteva per sbaglio il piede dentro con salsa. Che schifo. Che schifo. Ah sì, è vero. È tragico. Impraticabile, devi stare male con te stesso, è un po' più. Chi era con un nostro amico stava facendo i lavori in casa e non poteva più usare il bagno. E quindi tutte le volte come vedeva in giro per lo trovava in giro per San Lorenzo, era sempre alla ricerca di un cesso. Non andava più male in casa, era sempre in giro. Davanti a caffè. Chi ne beveva più ce ne raggiunge. Beh, quindi com'è centrale, no? Il bagno nelle nostre necessità. Sì. Beh, d'altronde, appunto, no? I grandi alberghi hanno le stanze con bagno, no? Le stanze, quelle senza bagno privato, sono quelle più scrause. Più scrause. Sì. Bene. Bene, direi che abbiamo fatto un'oretta, no? Sì. Quindi abbiamo sviscerato questo. Siamo divertiti oggi. Sì, è divertente. È un pochino piccante il l'argomento, e dunque ci ha accusato un po' tutti. Non sapevamo che finiva qui. All'inizio siamo partiti dallo spirito. Materiale puro. Sì, con l'onda non si riusciva a scendere dall'empire. Vabbè. Al gorgo, diciamo così. Il gorgo idraulico. E quindi sempre il bagno. Thank you.